Avventurieri, non preoccupatevi. C'è sempre un modo per recuperare ciò che si è perso. Chi tra voi è disposto a esplorare i dintorni nella speranza di recuperare qualcosa?